Violetto Brando, Brando, Brando, Brando, di Violetto passato, angelo caduto, annego ciò che è rimasto di me, un angelo nero caduto, anticristo di un passato, di una croce negrita rimai, favoloso spezzato, rockstar sopra un palco di noia e mai. Guai, sai, vai, fottiti tutti come sai. Silenzi volano, solcano, strage del mio cuore che mai. Volare rock and roll, lavorare nel mio. Dite di sì o non molla mai. Peccato senza, se, senza te. Ora sembra mai. Mai con nome urlai, mai come un mai. Wow, wow, wow, wow, wow, no way, no way, tuo cuore è Lago Hemingway. Tramonto, no way, no way. Scrittore, scrittore del frutti di un no way. Di un blog che non vola mai. Calimbi infernali di liquori, liquidi d'anima miei di mai. Violento Brando, Brando di violento passato, annego ciò che è rimasto in me, un angelo caduto nero, anticristo di un passato, di una croce negra di mai, favoloso spezzato, rocosa, sopra il palco di noia di mai, guai, vai, fottili tutti, come sai. Silenzi volano, saltelle le mie mani su note di rockstar di mai. Strage del cuore che mai.